ebri di questi fumi di gioia. E vabbè, ora di che non dico vabbè, vabbè. Boh, boh. Ma che vuol dire boh? E che vuol dire boh? Vuol dire boh. Che ci avrai da ride? All'età tua, senza famiglia, senza casa, senza una lira, ridi? Rido. E fai male, io al posto tuo piangerei. Tu ti tieni tutti i tuoi sentimenti chiusi dentro e non provi niente per nessuno. Ehi, lo dici come se fosse una brutta cosa. C'è un essere dentro di me che mi chiede di farlo felice. Raggiro dell'altrui incredulità. Ma che siete embriachi? Che c'è? E ci allora si incicherò. Da solo. Con me sto parlando, come un matto. Basta premere play. Boh. E a forza di boh che siamo arrivati a questo punto. Che conclusione è, boh? Ma com'è che significa boh? T'ho detto adesso! No, no, perché quando si tratta di ragionare su di te, a parola vuoi ragionare, quando si tratta di decidere... Ah, andiamo, ah.